E poi sento dire Bersani cosa, quel che ha in testa Bersani lo sa solo Bersani, c'è nessuno che sa cosa ha in testa Bersani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore, ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Sei ancora a casa, Simo? Siete delle merde! Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Ma vamo che ammazza il vatto. E a proposito di De Luca, la protagonista del giorno, caro David, è il capogruppo, la maestrina delle elementari, una delle poche battute riuscite di recente al signor Enrico Vaime. La vogliamo risentire la battuta del signor Vaime? La Lombardi maestrina delle elementari, una delle poche riuscita di recente al signor Vaime, che ci ha dato dei delinquenti da portare in galera per la questione dello scherzo Onida. Il signor Vaime, il signor Vaime. Quella supplente di matematica, come si chiama? La Lombardi. La Lombardi. E chiunque supplente di noi ha avuto alle medie una supplente identica, io me la ricordo assolutamente. Anche lei è stata graziosa, si è porta con una... Però devo dire, esordito con mi sembrava di stare a Ballarò. Adesso cerca di cavarsela la signora Lombardi, ma in realtà secondo me la toppa è peggiore, com'è che si dice in Veneto? Peggio il taccon del buso. Peggio il taccon del buso, esattamente, bravo. Allora, tutto nasce da questo intervento della signora Lombardi su Napolitano, in cui sostanzialmente dice è un nonnetto che deve andare in pensione ai giardinetti, senti. Io, da quello che ho visto del Presidente negli incontri che abbiamo avuto, penso che lui abbia bisogno e diritto a ricogliersi la sua vecchiaia, a fare il nonno. Insomma, io, cioè, quando ci abbiamo parlato lui pure l'ha detto, dice io vorrei appunto dedicarmi alla mia famiglia, godermi la mia vecchiaia, quindi, insomma, cioè, è giusto, ha 87 anni, mi pare. Per carità, ha fatto quello che doveva fare, ma insomma, lasciamoli andare alla loro vita queste persone, insomma. E tutto passerà. Queste persone lasciamole andare alla loro vita. Ora, si sente dal tono, bisogna essere onesti, non è che insulta Napolitano, cioè non è che ne parla in senso ironico, dispregiativo, cioè non tratta male Napolitano, però attribuisce a Napolitano stesso alcune frasi. Adesso secondo me ci dobbiamo aspettare qualcosa dalla Presidenza della Repubblica, perché dice, beh, ci ha detto che in realtà si vuole godere la vecchiaia, che vuole fare il nonno. Ora io dubito che il signor Napolitano, di fronte a crimi alla Lombardi, Parenzo, ma non risponderà, ma che risponderà? No, attenzione, io dubito che Napolitano, di fronte a crimine Lombardi, si sia lasciato andare dicendo bah, voglio fare il nonno. Ma questo è da escludere, esatto, nella maniera più voglio assoluta. Andare ai giardinetti, mi sono stancato. Allora, hanno parlato di questioni istituzionali, non è che si mette a parlare lì come se fosse a prendere un tè, no? Sì, dice vado al parco giochi con i bambini. Credo, poi magari mi sbaglio, comunque non ha detto è un nonno che deve andare in pensione a giocare con i nipotini in senso negativo, questo bisogna riconoscere. Però attribuisce a Napolitano la volontà di fare il nonno. No, ma soprattutto alcune frasi, ci ha detto che la vecchiaia se la vuole godere, vuole fare il nonno. Ma di che stiamo parlando? Guarda, cioè, ma te le immagini il confronto tra Napolitano? Adesso questa sera cercheremo di avere il presidente, come al solito, no? Ah, bene, molto cercheremo bene. Di avere il presidente, il nostro ospite, insomma, frequente, per fortuna. È bello questo rapporto che sei riuscito a instaurare. Sì, è bello, è molto bello, sì, è molto bello. Bravo. Comunque, ti dico, mi pare complicato, mi pare difficile. La spiegazione della Lombardi alla TV di Grillo, là, la cosa, come si chiama? Dove c'è quel tizio che dice sempre di sì a Grillo, no? Fa con la testa così, il conduttore, no? Dice sempre sì. Qualcuno oggi ha detto, capace pure di avere un torcicollo tra poco a quello. Dice sempre sì a Grillo. e c'erano tutti i giornalisti che erano molto interessati a sapere perché eravamo lì, eccetera, eccetera, e poi hanno iniziato a parlare del fatto dell'elezione del Presidente della Repubblica, hanno fatto tutta una serie di nomi, sì. E poi hanno detto, se Napolitano si ripresentasse, e io ho detto, guardate che nei due incontri che ho fatto con Napolitano, lui ha detto, e l'ho anche visto, di essere stanco, e che voleva godersi la sua vecchiaia e fare il nonno, godersi i nipotini. E questo è stato quello che io ho detto, non sono stata io ad invitarlo, ma è stato lui a dire che ne sentiva l'esigenza, visto che tra l'altro ha quasi 88 anni. Cioè, secondo la Lombardi, Napolitano avrebbe detto che sente l'esigenza di fare il nonno, di stare con i nipotini. Amici miei, su! Poi magari c'ha ragione lei, la maestrina delle elementari, No, ma poi è di un cattivo gusto assoluto, perché se anche l'avesse detto, tu non è che fai uscire dei leaks. Vabbè, cioè, come no? Scusi, signor Grillo, non è tutto in streaming, non è tutto trasparente. Deve essere tutto trasparente. La Lombardi ha ragione. Ha ragione. L'altro giorno ero nel giardino di casa mia. Mia moglie è caduta dalle scale, si è rotta un femore, ho fatto riprendere tutto da Casaleggio. L'ambulanza è arrivata con un'ora di ritardo. Beh, ho capito. L'ho fatto riprendere tutto anche dentro l'ambulanza. Ho detto, un momento, bisogna rifare le riprese ancora. Il popolo della rete non ha deciso. Ha deciso se deve andare all'ospedale oppure deve rimanere a casa. Non votavano, erano impegnati a votare. È così che fu. Scusi, ma lei l'ha fatta restare lì in attesa? L'ho fatta rimanere lì grondante di sangue, con i barellieri che dicevano lei è un criminale. Ho ripreso tutto, ho chiesto alla rete se era vero. Tra l'altro Grillo piglia per il culo quel conduttore là della cosa, là Matteo, sei il nuovo Fede. Senti come lo piglia in giro. È un genio totale. Emilio, come va? Ti ha proposto dell'Emilio Fede, roba da farsi. Tu sei oltre Emilio Fede. In che sei senso? Una cosa nuova. Sei un DJ, non costi nulla, gratuito, in una stanzetta, fantastico. Poi prendono il tuo lavoro, Repubblica lo fa, ci mette anche la sua pubblicità meravigliosa, facciamo un po' di beneficenza. Metteteli un po' dietro quella foto con De Benedetti, col suo editore, che è meraviglioso. L'ho messa. La centrale a carbone, che c'è a Vado di De Benedetti, mettetela lì dietro, così facciamo un po' di pubblicità di quella vera. Come il vento andavi tu. Ma la notizia di oggi è l'incontro tra i due ex nemici, Renzi e D'Alema. Qui bisognerebbe mettere una bella canzoncina che abbiamo messo anni fa. Come si cambia per non morire? Vabbè, incontro. Come si cambia? Per amore. Aspetta un attimo. D'Alema oggi. Ti faccio sentire un D'Alema oggi. Due persone che tra di loro dovrebbero scindersi, sarebbero il sindaco di Firenze ed io, invece diciamo veniamo da una lunga, cordiale e amichevole conversazione. E D'Alema, che facciamo? Aberrante quello che... Sentiamo questo, ottobre. Questa discussione secondo cui io ti nomino, io Renzi, io ti metto, io ti levo, è aberrante. Siamo in democrazia, sono i cittadini che le dice che questo. Come si cambia per non morire? E siamo qui col sindaco di Verona, Lega Nord, Flavio Tosi. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Come va, caro sindaco? Andiamo avanti. Si campa. Il fascista di Verona. Ma come mai rispuntano sempre fuori queste cose? Ma c'è un'ossessione da parte del signor Bossi, scusi, Tosi, perché questa cosa del fascista risale ormai ad anni fa, cioè le dà continuamente del fascista. In questo caso in realtà dice che lei ha portato i fascisti con i guanti neri a picchiare le donne. Non le ha dato direttamente del fascista, però più o meno siamo là, no? Ma guardi, da Verona sono andati i soliti 1000 militanti circa che vanno a vedere, ad assistere alla manifestazione. Sì, ma c'erano non ci sono fascisti, non ci sono picchiatori, ma evidentemente si è avuto un momento di stanchezza e quindi ha confuso le cose. Momento di poca lucidità, dice. Di stanchezza. Ma questi fascisti di Verona che picchiano le donne, cioè questa cosa dei fascisti gliela ha inculcata qualcuno? Possiamo dire un'ossessione sta cosa? Si può dire o no? Ma non lo so, bisogna chiederlo a lui. O alle persone con le quali lui ha parlato e gli hanno descritto una realtà diversa dallo stato delle cose. Però, non è più lucido, cioè è no, ma un po' di lucidità. No, dice che è stanco, dice che sono stanco. Sì, però voglio dire, lì c'era non sono stanco per niente, sono vivissimo. Sono stanchi quei fascisti di Verona, sono diventati tutti. C'è anche quell'arena lì come a Roma, bisogna buttarla giù, quell'arena lì. Ma l'arena che c'è tra l'arena? È un'arena romana. Ma no, via, vabbè. Da buttare giù l'arena romana. Forse vengono da là i fascisti. Che cazzo serve un'arena? Via, tenete il Colosseo, fate un parcheggio padano, un'arena. L'arena non serve a niente, buttala giù. Però io voglio dire, ma questa cosa che picchiavano le donne, cioè, ma di che parliamo? Scusi, però una volta per tutte bisogna... No, infatti, lo chiedo io, di che parliamo? Nel senso che non è accaduto nulla di simile, vabbè, comunque... No, però voglio dire, diciamola tutta, sto Bossi perde colpi qua, cioè se torna ancora sui fascisti, perde colpi. No, ma allora, siccome è chiaro che ha descritto una cosa che non è... Momentanea stanchezza. Comunque, guardi, qui bisogna. Ma c'è una guerra pazzesca, dai, nella Lega in questo momento. Ma la guerra, sai, in realtà, secondo me non c'è una guerra, vero? Tosi? Veneti e Lombardi, c'è una, ma lasciamo perdere Veneti e Lombardi, non è anche dentro i Veneti, non hai capito niente. Come al solito, non sei aggiornato. Ma come no? So perfettamente. Ma non sei aggiornato. Zaia contro, ma come no? So tutte aspetta, le cose. Aspetta un attimo, fammi parlare. Fai parlare me, che se tu fai le tue cose, io sono più aggiornato di te. Allora, io voglio chiedere una cosa a Tosi. Ora, diciamo la verità, questi è una minoranza, proprio della minoranza. Cioè, quanti sono i bossiani? Quattro gatti? No, ma qua non è una questione di bossiani o di maroniani. Il punto è che questo è oggettivamente dimostrabile, perché ci sono anche i filmati che c'erano 40-50 persone su migliaia di persone presenti sul prato di Pontida. C'erano 40-50 persone organizzate, ma non è che erano lì per caso. Cioè sono loro i provocatori, dice lei. Tutte col fischietto. Beh, cioè, sono 40-50 persone che vanno lì e vanno a fischiare, a contestare, organizzandosi in tal senso prima. Sì. Evidentemente sono delle persone che non hanno a cuore il movimento, perché poi questa trasmissione, seppur ironica, come anche i giornali e i mass media il giorno dopo, non hanno fatto altro che parlare della divisione, delle contestazioni. Però appunto quello che dico io, sono una minoranza estrema, cioè non contano nulla questi qua, cioè della Lega. Ma adesso diciamo che quelli che contestavano sul prato erano meno dell'1% dei presenti. E si può dire che i bossiani contano ormai meno dell'1%, quelli fedeli? No, ma voi cercate sempre di estrapolare. Ma no, estrapolare è una domanda. È una domanda. La vostra interpretazione. No. Io dico, rispetto ai numeri di quel prato, quelli che facevano casino era meno dell'1%. D'accordo, siccome Bossi. Però, scusi, Tosi, siccome Bossi oggi ha detto che se continua così potrebbe pure uscire, diciamola tutta. Se lei vuole dirlo, se lei lo vuole dire, mica le voglio mettere in bocca delle cose che non vuole dire. Se Bossi va via, per la Lega non è una grande perdita, dal punto di vista numerico, dico, no? Diciamo che io non mi metto a discutere le scelte individuali. Cioè, no, se Bossi va via, lei si strappa i capelli o no? Non si strappa i capelli, diciamo la verità. No, nel senso che siamo un paese dove c'è il libero arbitrio e uno può decidere liberamente, può uscire Tosi della Lega se decide Flavio Tosi di uscire, uscire Bossi della Lega se Bossi decide di uscire. Questo siamo, però questa è una cosa tautologica. Però la Lega sopravviverà se Bossi esce, questo voglio dire. Cioè, è ovvio che la Lega sopravviverà. La Lega è un movimento organizzato, ha un segretario federale che è Roberto Maroni. Cioè, oggi la perdita. Tutti sono utili, nessuno è necessario. Ma a parte questo, ma oggi se Bossi tutti se ne va. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile, neanche Tosi. No, neanche Tosi, certo, però bisogna dire la verità. No, Tosi è anche un po' stronzo, quindi. Tosi è fascista e stronzo, non solo aggiunga sempre fascista. Però scusi Tosi, diciamola tutta, se Bossi, lei mi deve rispondere sì o no, oppure mi deve dire no, questa non rispondo a questa domanda, oppure se ne va a quel paese, oppure non risponde più. Se Bossi va via, è una grande perdita per la Lega? No, credo che non ci sia la necessità che nessuno vada via. È d'accordo, vabbè. Credo che oppure un vantaggio, magari un vantaggio, le cose sono più chiare. Io credo che oggi c'è un nuovo segretario federale e per il bene del movimento bisognerebbe fare in modo che il segretario federale Maroni possa lavorare con serenità al progetto della macroregione. Delle esternazioni estemporanee sicuramente non aiutano un progetto serio come quello della macroregione. Benissimo, Bossi non sta aiutando, non sta aiutando Maroni con queste esternazioni, si può dire? Ma questo l'avete detto no, voi. Domanda, certo. domanda. È una vostra libera. No, è una domanda, Vabbè, ma voi sapete che io sono, che quando mi ci metto sono abbastanza democristiano. Lei è molto allenato e democristiano, allenato alla zanzara e anche democristiano. Traffico, torno subito. La zanzara. Ancora a casa. Le zanzare di casa. Eh sì, siamo ancora qui, 800 24 00 24, la zanzara con Flavio Tosi, sindaco di Verona, esponente della Lega Nord, come sapete. Parenzo, io voglio chiedere una cosa definitiva sulla questione di Bossi. Sì. Cioè, lei, Tosi, se Bossi dovesse fare un altro movimento, si strappa i capelli, si dispera, oppure no? Oppure diciamo, è tutto normale? No. Non ho capito, se Bossi? Se Bossi se ne va, lei si dispera? Se Bossi se ne va, ne devo prendere atto. Ne prende atto. Com'è democristiano lei? Senza strapparsi i capelli. Com'è democristiano? È un danno per la Lega se se ne va? Ma io credo che oggi la è Lega... È il passato, tu, Bossi è il passato, diciamolo tutto. Io credo che oggi la Lega abbia un grande progetto del quale occuparsi, che è quello appunto di costruire la macro regione federalismo, e vabbè, dobbiamo tutti impegnarci su quello. Mamma mia, lei è diventato una cosa pazzesca, cioè per tirare fuori qualcosa a Tosi bisogna portarlo nel, bisogna fargli uno scherzo, Parenzo, bisogna... ma non lo sente più Bossi proprio. No, bisogna fargli uno scherzo. No, da quanto tempo è che non sente Bossi Tosi? Beh, un bel po', un anno non ci sentiamo spesso. Un anno, che ne so, un anno, ma un anno no, perché magari ci si vede l'imbellerio, però sì, diciamo non è che ci sta spesso. Senza parlare, ma proprio, proprio Bossi, proprio no a lei, insomma, nei suoi confronti lui, Bossi ha proprio... Voi telefonerete a uno stronzo, no? Scusa. Quando è che gli ha detto, una volta stronzo? Beh, certo, certo. Una volta disse stronzo, sì. Com'è c'è un bel clima. Com'è, però, che diceva, com'è che diceva Bossi, scusa? Quello lì, quel Tosi lì, uno stronzo venduto, ha fatto costruire quell'arena lì. Ma no, è stato lui! È stato lui. Ma non è stato... buttarla giù subito, fare allo stato di Alberto da Giussani, si chiama Arena Romana. Alla fine li cacciate, la signora Goisis e quei consiglieri regionali, adesso non interessa a nessuno ovviamente, li mandate via oppure... Goisis, secondo la gente in macchina, la signora Goisis! Lo so, voglio sapere se ci saranno le espulsioni, perché in Lombardia alla fine hanno fatto un po' marcia indietro, non ci saranno. Invece in Veneto... Ma adesso mi sentirò anche con Roberto Maroni, con Matteo Salvini. Noi abbiamo una riunione, un direttivo convocato per sabato mattina, sì, e quindi adesso vedremo un attimo di coordinarci con i colleghi. Però si può dire che, come in Lombardia, anche in Veneto non ci saranno espulsioni? O no? Ma adesso ripeto, provo un attimo a vedere, sentire appunto cosa devo sentire appunto Maroni e Salvini per poi decidere. Vabbè, non avete cosa deciso. Proporre, no, non abbiamo deciso. Però si stanno allontanando dalla linea della Lega. Cioè, vabbè, ma adesso chi se ne frega questo qua. Scusi un attimo, ma Zaia ha detto che bisognerebbe sospendere le previsioni del tempo. Hai sentito Parenzo qualche giorno fa? Sì, sì, sì. Perché danneggiano il turismo? Ora vorrei un giudizio però lapidario, signor Tosi, su questa idea piuttosto bizzarra del governatore della sua regione. Così, una frasetta. No, ma guarda che non è bizzarra. Dai, su. No, guardi, no, allora, siccome anch'io, quando magari devi andare da qualche parte, guardi le previsioni del tempo. Ma no. Allora, forse... Per prudenza, che ne so, eccesso di prudenza, quindi le previsioni del tempo mettono più volte, cioè è molto di più le volte che sbagliano mettendo il cattivo tempo e dopo magari c'è il sole che viceversa. Tosi, lei mi dovrebbe dire questa cosa che ha detto Zaia è una stronzata, questa è la realtà dei fatti. No, non è una stronzata, perché comunque fanno un danno a una regione turistica come il Veneto, a dire che piove, soprattutto nel weekend. Ma lo farete a Verona lei? Su Pasquetta, le previsioni dicevano che era il tempo, invece è stata una giornata. Vabbè, splendida. Abbiamo poco tempo. Renzi è un politico molto più moderno rispetto a Bossi? Beh, Renzi è molto più giovane rispetto a Bossi. Ah, giovane, questo è una... Se lei fosse costretto a scegliere tra Renzi e Berlusconi, chi potrebbe come presidente del Consiglio? Ma parola. Cioè, ma per... non c'è. Ma non ce la facciamo. Tertium non datur. Tertium non datur. Dai, dai su, tra no, Renzi e Berlusconi. No, dai, su questo rispondo, Renzi. Renzi, oh, meno male. Cioè, perché non è neanche così clamoroso. Se l'alternativa fosse solo quella, vero? No, beh, certo, ma sto parlando chiaro di fronte a un leghista. Non è che sto dicendo tra Renzi e Maroni, ma no. Ma tra Renzi e Bossi, ad esempio, questo è buono, Tra Renzi e Bossi? Ma io penso che la Lega proporrebbe una persona più giovane di Bossi. Sì, vabbè, tra Renzi e lei? Tra me e un altro. No, tra Renzi, tra Renzi e Bossi, lei, Flavio Tosi, sindaco di quella. Ma la Lega proporrebbe un candidato sicuramente un 40enne, 50enne. Vabbè, sì. Comunque te lo dica, Bossi è il passato remoto della Lega. No, no, è una persona che ha costruito la Lega in pensione, come dice la Lombardia di Berlusconi, i giardini di La Zanzara. Io ascolto La Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al casello di Genova, duro. Adesso questo ascoltatore magari esagera, caro Parezzo, però, magari esagera. Però... dovremmo farci qualche domanda, diciamo. Però... sì, dovremmo farci qualche domanda, però tutto ciò arrivava dopo una frase pronunciata dalla signora Barbara Guerra. Sì, a Barbara Guerra, Non le importa mucho, se non prendo sueno, non le importa mucho, se non prendo... Adesso tutti vanno alla corte di Renzi, Orfini coinvolgere di più Renzi, ma che vuol dire? Perché ancora i politici, anche quelli più giovani, parlano questo linguaggio vecchio, antico, coinvolgere di... ma che vuol dire Orfini, su? Io credo che Renzi debba essere coinvolto di più nella vita del Partito Democratico perché è un importante leader e dirigente del Partito Democratico che fa bene al Partito Democratico perché ha tanto consenso. Credo che se questo non è avvenuto si fa fatica. Ma la noce no, tranquilla. Allora, Brunetta parla di colpo di Stato se il nuovo presidente dà un incarico a Bersani senza i numeri, addirittura golpe. Colpo di Stato. Questo dice il signor Brunetta, no? Brunetta. Sì. Non si sogni neppure Bersani di pensare di pretendere dal nuovo Presidente della Repubblica quello che Napolitano non gli ha consentito, cioè di presentarsi alle Camere senza una maggioranza precostituita. Sarebbe un colpo di mano. Direi un colpo di Stato. E aggiungi anche un colpo di mano. Direi un colpo di Stato. Certo, ma tanto butta la lì, che cazzo ti frega? Ma dillo, tanto. Grillo contro Riotta, ex direttore del Sole 24 Ore, sentite. Un abbraccio a tutti e ci sentiamo presto. Posso smettere di annuire? Smetti di annuire, adesso la lingua rimettila dentro il cavo orale. Metta a posto. E aspetta una telefonata di Riotta. Se ti telefona di nuovo Riotta, dimmi un po' di rendicontarti lui, il giornale a cui è andato a fare il direttore, quanto hanno perso. Dimmi un po' di rendicontarteli. Un abbraccio, Matteo. Grazie, ciao Beppe, buona giornata. Grazie a tutti. Ogni tanto si toglie anche Grillo qualche sassolino dalle scarpe. Più di questo, tanto. Tratta quel povero conduttore anche prima. Io voglio dare la solidarietà all'amico e compagno Matteo, sì, che è lì relegato in quello sgabuzzino lì a dover sentire ogni giorno la parola del Grillo. Cioè, lo tratta anche, ma lì dice che non è neanche pagato, cioè lo umilia proprio, ma lo picchia anche, gli tira in testa il computer, l'iPad, gli tira in testa l'iPad, ma cosa fa? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il PD smentisce l'ipotesi di Bersani al Quirinale. Il segretario, penso solo ai colli piacentini. Incontro con Maroni, governo subito, dice la Lega. D'Alema, è stato un errore escludere Renzi dai grandi elettori del Quirinale. Con lui incontro amichevole. Non vedo rischi di scissione nel PD. I 5 Stelle occupano una sala di Montecitorio. Sondaggio web sul nome per il Quirinale. La Lombardia attacca Napolitano, poi corregge. La BCE, mai così tanti disoccupati in Europa e andrà anche peggio. In Italia fermi quasi 6 milioni di lavoratori. Monti, l'Italia non contagia nessuno. 5.000 caschetti in piazza Trieste per simboleggiare i posti di lavoro persi nell'edilizia. Da Bologna la storia di un'impresa fallita per crediti non pagati. Dopo il voto del Senato passa alla Camera per l'approvazione il decreto sulle staminali. In piazza le famiglie dei bambini malati, adesso cure per tutti. Centinaia di giovani stranieri sottoposti a visite mediche per accertarne l'età, dopo un'inchiesta giudiziaria su finti minori. Per loro lo spettro dell'espulsione. Le zanzare di casa. A parte le giravolte di D'Alema su Renzi, ma questo fa parte della realpolitik. D'Alema, che non è l'ultimo arrivato, si è accorto che insomma Renzi adesso pesa, dopo le elezioni pesa parecchio, dunque va a rendergli omaggio. La cruda verità, le zanzare di casa mia mi adorano perché sono pazzo. Vogliamo sentire Fiorello? Fiorello, voglio le larghe intese che fa Berlusconi, ma Veronica 36 milioni, senti, anzi è più facile parlare con Bersani che con Veronica. Forse un giorno. Guarda cosa c'è scritto qui, Silvio non si fida di Pier, parla di ascelle, ma cosa vuol dire? Roba da matti. In conclusione posso dire che mi è più facile mettermi d'accordo e parlare con Pierluigi Bersani che con Veronica, ma roba da matti, una roba che io non avrei mai e poi mai creduto in vita mia. Ma il personaggio di oggi resta la Lombardi, che si corregge ma fa una correzione che secondo me è peggiore dell'originale. Mai detto che deve fare il nonno, no, non l'hai detto Lombardi, però hai attribuito questa frase a Napolitano. Giampiero Mughini, buonasera. Eccoci qua carissimi. Come va? Come va? Come hai preso questa frase pronunciata dalla signora Lombardi? Sai, io sono un attento lettore della rubrica I dilettanti, dilettanti allo sbaraglio, rubrica che i grillini alimentano copiosamente, copiosamente, da grandi corsivisti e del zeviristi. Non ne dicono una che non sia una farsa. Beh, devo dire che questa cosa Napolitano del clamoroso, perché effettivamente non sembra, poi risentendola, un insulto a Napolitano, e però la signora Lombardi ci riferisce che Napolitano le avrebbe detto: ma guarda, io sono lì che mi voglio godere la vecchiaia, ma su, dai, ma non possiamo credere alle favole. Vi pare a voi che Napolitano si può mettere a discutere con la signora Lombardi? Dai. No, ma Napolitano può anche dire in una chiave affettuosa e tenera con quella che potrebbe essere sua nipote, che lui tutto sommato la sua vita politica l'ha avuta, sì, e che un nuovo round è molto difficile, eccetera. Ma quando tu esci dall'aver chiacchierato con uno che è stato in questi ultimi mesi, anni, il padre, il garante della nostra democrazia, la metti in un modo diverso, in un modo intelligente, se sei, non dico un leader politico, ma un essere pensante. Se invece balbetti delle sciocchezze perché sei una dilettante allo sbaraglio, e allora vengono fuori queste cose. Tra l'altro oggi Parenzo hanno fatto un'altra mezza gaffa, non si capisce, siccome gli hanno assegnato la sala Tatarella alla Camera, allora dice... Ma è una sequela di sciocchezze, perché loro, capisci, vivono la politica come un cabaret sul web. Sì. Perché sai, il web è il luogo fantastico oggi del cabaret. In 140 caratteri puoi scrivere qualsiasi porcata 24 ore al giorno. Sì. E loro trasformano tutto, ma poi non vedo perché se la debbano prendere con Tatarella, mettere Giancarlo Siani, ma che discorsi è? Allora si dovrebbero cambiare le strade, le piazze, Piazza Risorgimento, farla diventare Piazza Anticasta, ma quali sciocchezze. Sì, no, poi che ve ne frega se state nella sala Tatarella? Cioè... Ma state benissimo nella sala, ma imparate a starci. Imparate a leggerla la Costituzione, che è sbagliata. All'articolo 1 c'è messo che l'Italia è fondata sul lavoro, è fondata sulle tasse e sul debito. Ah, no? Questo. Dovevano correggere quell'errore. Senti, ma come hai visto questo incontro da D'Alema e Renzi di oggi? Benissimo, benissimo. Bene, benissimo, bene, benissimo. Tu sai che io sono uno dei più accesi dalemiani. Lo so. Uno che si presenta con una tale forza di antipatia, per me è irresistibile. Certo. Sai, anch'io sono un re dell'antipatia, quindi lo sento molto affine. Poi onestamente, tra Renzi e D'Alema, le ostilità le aveva aperte a suo tempo Renzi. Con la rottamazione, certo. Dicendo che come se uno dovesse dovesse rottamare semplicemente perché allora gli inglesi dovevano rottamare Winston Churchill. No, allora Renzi ha risposto ad una provocazione. Adesso Renzi capisce che il PD è un passo dinanzi all'abisso e siccome è un uomo intelligente capisce che è l'unico uomo che possa portarlo, non dico lontano, ma insomma a distanza civile dall'abisso è Renzi, no? Senti, però voglio una stasera Renzi Parenzo è ospite di Mentana, così viene annunciato, sì. Alla 7. Allora, però in conclusione voglio, prima della pubblicità, voglio chiedere a Giampiero una cosa calcistica. Tu Parenzo stai zitto un attimo, non ci capisci niente. Questa cosa del complotto di Moratti, ti prego. Ti prego Giampiero. Passiamo da un cabaret all'altro, dalla Lombardia a Moratti. Sì. Vogliamo più alto. Dai. Perché a livello dei grillini, pensi, Moratti. Ma sì, quella è una cosa a livello dei grillini. Lui è un uomo che non ha né ironia né autoironia. È stato 20 anni spendendo soldi, poco meno, senza vincere neppure un gelato alla crema. Sì. Poi sono arrivati i giudici e l'ex membro del consiglio di amministrazione Rossi, sì, che gli hanno fatto vincere perché gli altri erano morti 4 scudetti di fila. Stai contento. Contento. Adesso dice che c'è un complotto contro l'Inter. Ma no, è chiaro che quell'arbitro ha fatto una gran cavolata, ma questo fa parte del calcio. Le cavolate le prendi e te ne avvantaggi, ma il complotto di chi? Della loggia, ma che ne so, massonica, dei giudei, di chi? Non lo so. Ma manca solo quello, signor Bugini. Grazie Giampiero, a presto. Ciao, presto. Vabbè, ma quando tu dici il complotto, sì, qualcuno a complottare ci deve essere. Ma sì, ma il Milan indica un nome, cognome, indirizzo. Lo so, ma no, qui ma siamo, scusami, siamo a livelli da TS. Non siamo a livelli da TS. Non siamo a livelli caduti a discutere di questo, ma con quello che l'Italia sta sopportando. Ma non è a livello di TSO, signor Moratti? Moratti, ma siamo nell'ambito dell'impazzimento generale di tutto e di tutti. Ma tu te lo saresti immaginata, sì, la notizia qualche giorno fa, una professoressa di liceo che dice alla studentessa ebrea: tu saresti stata molto più disciplinata da Auschwitz. Sì, bravo, sì. Potresti immaginare. No, vabbè, ma quello... Che immaginavi che una così immediatamente la portavano al reparto psichiatrico grave. Invece quella probabilmente fa ancora. Ma chi vorresti al Quirinale invece tu? Chi ti piacerebbe? Ma lo sai, dai. Ma chi D'Alema, ti... D'Alema. D'Alema. Prima di D'Alema per me va benissimo. Napolitano? Napolitano andrebbe benissimo, ma naturalmente il mio candidato è Giuliano Amato, degli uomini più intelligenti. Ma 30.000 euro di pensione, Giampiero, su. Ancora? Basta! 30.000 di pensione, ma dai. Cosa? In primo luogo sono lordi, in primo luogo, come sai, la gran parte la devolve. Ma che vuol dire quello? Ma scusami, ma cosa vuol dire 31 di pensione? È troppo! Ma cosa vuol dire 31 di pensione? Ma ancora Amato, dai! Cosa vuol dire? Ci sono delle leggi. Ma poi, certo, lui ha detto che ruba. Per esempio, se avessi 300 euro di pensione, sarebbero troppi, hai capito? Ecco. Ciao Giampiero, a presto. Aspetta. Dimmi che vuoi fare? No, chi volevo sapere da Giampiero come sta la cagna. Oddio, con sta cagnetta. Lascio, dagli uno schiaffone, Giampiero, ti prego. Sta? Giampiero, te ne sei andato, borsa. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli un sorriso, e balli un sorriso. Silvio Berlusconi e Massimo, come si chiama quello? D'Alema. Facci interloquire. Assieme avevano militarizzato. Ma chi se ne frega? Il Parlamento. Quindi tenete presente questo. Adesso dovete salvare Silvio. Dovete salvare Silvio. Perché Silvio di nuovo sta tentando lo stesso gioco con Massimo D'Alema. datemi la nota del Quirinale, allora, su Unita, datemi la nota su Unita, allora, del Quirinale. Voglio dire, mi fai fare una, parlare fare di una un no? appello. Ma che appello? Mi fai Radio Radicale di appello? Un appello è, di non... un minuto. C'hai una radio a disposizione. Ma non è Radio comunità, Londra. Alla comunità penitenziaria. Ma non me ne frega un cazzo. No, dai. Non me ne frega un cazzo. No, no, no, no, no, Marco. No! Basta la qui! Attenti, c'è! Ma scusa! Ma no, io dico che. Ragazzi, mandate un po' di musica, dai! Non capisci un cazzo! Ho beccato! Ho capito, però non è che uno spaccia lo studio, no? Comunque, vabbè! Non capisci un cazzo! Sì, ho capito, non capirò niente, però non è che uno picchia le persone, spaccia gli studi, vabbè, comunque. Si arrabbia per l'appello sulle carceri. Sì, sì. Intanto è tornata, a proposito di Radicale, è tornata in campo Cicciolina che si candida alle comunali a Roma. Ah, ecco, mancava questo. Mancava Cicciolina, che sarà il nostro ospite tra un'oretta, dunque rimanete lì incollati, rimanete lei lì. Mai, lei Sor Cucciari mai che una sera che so, ci stupisce e dice al posto di Cicciolina, faccio vedere, non so, stasera la radio della Confindustria ospite Zygmunt Bauman per riflettere. Ma chi cazzo lo conosce? Aspetta un attimo. Senti questa cosa qui. Staller, Grillo ripete quello che dicevo io nell'89, l'89. Beppe Grillo oggi in sostanza non fa altro che dire le stesse cose che io dissi nel 1989. Vabbè, sorvoliamo e andiamo a sentire Mario da Treviso. Buonasera Mario. Molto buonasera. Dica, dica. Allora, voi siete come paperissima della radio. Però paperissima della radio? Beh, potrebbe anche essere un complimento. Vi manca una chicca. Come mai non sentite mai le prime mogli, le mogli di Primo Letto, di Bossi, di Fini, di Casini, di Bellucci, magari, di magari. No, quella di Calderoli l'abbiamo sentita qualche volta. Cinque, esatto, un personaggio forte. Sì. Ce ne sono cinque bombe qua. Bossi, Fini, Casini, ho capito, ma scusi, ma che ne sa lei che non le queste persone non le cerchiamo? No, le cerchiamo, no, magari non vogliono rispondere. Bene, questo era un mio piccolo suggerimento, non era. Vabbè, non si preoccupi. Poi suggerimento poco utile, diciamo. Vada avanti, vada avanti. Per sentire il parere anche di queste signore. Va bene, il parere. Se lei riesce a convincerle a venire alla Zanzara, io le posso dare un quarto del mio stipendio. Per il popolo ascoltatore. Va bene, poi? Va bene. No, basta, Claudio D'Agrigento, buonasera. Intanto avete sentito, l'agente di Noemi Letizia, l'ex agente, dice questo che è il punto. Dice che Berlusconi ha fatto questa sesso con lei. Ma che notizia? Ma quale notizia? Aveva già fatto un'intervista nel 2011, dai, su. Questa era la roba, intanto abbiamo tirato fuori ancora questo caso, che vuol dire? Allora. Ma sentiamo l'audio, va, di questo signore, va. Sentiamo l'audio di questo signore che stasera andrà a servizio pubblico. Servizio pubblico. Francesco Chiesa Soprani. Signor Soprani. Signor Soprani. Aspetti, aspetti, Claudio. Sentiamo Soprani. Che non la Soprani. Aspetti. Aspetto. E lei in maniera molto arrogante, era molto sicura di sé, mi disse: mi chiamo Chiesa, perché gli spiegai che facevo l'agente televisivo, gli artisti che rappresentavo, anche per darmi un certo tono, insomma. Mi chiamo Chiesa e mi disse che guardi, io già Lele Mora, Emilio Fede e Silvio Berlusconi si stanno occupando di me, siccome sono minorenne, quindi tutte e tre sanno che sono minorenne. Quindi Berlusconi sa. Perfetto, non posso fare nulla, quindi non posso nemmeno lavorare con te. Per dire, lasciami. Qui parlava di Rubi, Claudio D'Agrigento, allora avanti, Claudio, dica. Ascolta, io volevo parlare di un'altra cosa ieri sera. Perché ce ne freghiamo di ieri sera, parli adesso, su. Perfetto. Poco fa sono uscito, io lavoro in comune. Lavoro in comune dove? D'Agrigento, lei c'ha un cazzo da fare, è uscito dove? Dal lavoro, dice lei. Ah, vabbè. Sì, esatto, dal lavoro. Sì. Davanti al comune c'era un tizio che si voleva dare fuoco. Perché ha perso il posto di lavoro. Ma va bene, che devo fare? Va male, no, però no, che devo fare? Io, Claudio, il posto di lavoro, che miserabile. Tutti l'hanno sfottuto perché era il guardiano dei cessi pubblici. Il guardiano dei cessi pubblici? Dei cessi pubblici. Ha perso il lavoro e si voleva dare fuoco. Benissimo, poi? Cioè, malissimo. Dunque? Malissimo, era questo. Io volevo parlare di altre cose, ma sono rimasto scioccato da questa situazione. Polizia, ieri. Ma poi si è dato fuoco o no alla fine? Non lo so. Ma come non lo sa? Siamo usciti tutti, ma non so che cosa è successo. Era questo che volevo dire. Vabbè, non abbiamo notizie. È terribile, però. Non abbiamo notizie. Sì, è terribile, certo, è scontato. È terribile. Per me se lo posso lavorare di 500 euro. Perché ma che dobbiamo fare noi, Claudio? No, però già dirlo è importante. Sì, dirlo è importante. No, benissimo. No, dirlo. Farlo, cioè, la gente si tenta di uccidersi per pochi soldi. Va bene, poi. C'è la fame. Poi c'è la fame, sì. Poi? No, ma questo è vero. Per l'arroganza, ma non mi interessa. Non ho capito. Ha chiuso. Lorenzo della provincia di Lucca. Aspetta, come. Buonasera, Cruciani. Sì, vada. Dicevo, diverse notti che non prendo sonno perché non ho ancora capito chi è quel politico che ha messo un cinta alla casa, la. Come si chiama? La governante. Com'è? Storia finita, cose? Morta. Chiusa. Storia finita, morta. Come? Non è stato di nulla? No, era uno scherzo d'aprile, un pesce d'aprile. Ma chiuso. Siete sicuri? Sembra di sì. Ma vabbè, e poi questi soldi a Berlusconi, io odio questo da fare in culo, tutti quelli che chiamano che dicono ma questi problemi italiani, queste cose, uno con i suoi soldi fa quel cazzo che gli pare, è vero? Chiedo conferma. Ma su cosa, scusi, su cosa? Su dare soldi privati alla donna di Berlusconi, quanto prende? La donna quale? 100.000 euro. Ma quello è il divorzio, che c'entra? Quello sì, è ma voglio dire, la gente che si lamenta, ma come mai è uno scandalo, 100.000 euro al giorno, e uno con i suoi soldi fa quello che gli pare. Vero? Ma in questo caso non è che fa quello che gli pare, è il giudice che gli dice che deve pagare 100.000 euro al giorno, ma non ha capito niente. No, io ho capito, ma ci sono tutti quelli che no, è uno scandalo, Ma è uno scandalo, lo dice Berlusconi stesso che in questo caso è uno scandalo, lei è un po' confuso, Giuseppe dalla provincia di Chieti. Ah, buonasera dottorino Cruciani, buonasera. Le farò prendere un veleno. Sì, vediamo, sì, vediamo. Sì, sì. No, ma vediamo, sì. Allora, lei quando parla di tutto e di tutti, critica, perché non dice che prende i soldi da Confindustria, che prende un contributo di 19 milioni all'anno, quindi anche i soldi miei, no? Okay? Sì, 19 milioni, perché questo non lo dice? Contributo di che tipo, scusi? Un contributo a fondo perduto. Ma quale contributo a fondo perduto di cosa? Allora, Confindustria, sindacalisti, politici, lei è pagata Confindustria, vero? Sì, certo. Anche il suo aiutante bolscevico comunista di merda, Sciacquino Zerbino? Sì. Forse ha dimenticato qualche aggettivo, però sì, confermo, pagato dalla Confindustria. Perfetto. Quando le danno 2000-2005? No, un po' di più, molto di più. Ah, cazzo, molto di più. Caspita, no, stavo per dire cazzo. Allora, le dico questo. La fa rosicare, vero? Lei è pagato, no, ma le male parole, io stavo la fa arrabbiare un po', il fatto che lei mi insulta gratuitamente, invece io sono pagato per insultarla, la fa un po', No, se mi fa parlare, allora. Vabbè, ma che vuole lei, Giuseppe? Vuole dire che anche il Sole 24 Ore ha un finanziamento pubblico in diretto? Sì, è vero, allora? Perché non lo dice? E allora, ma io lo dico, qual è il problema? Non lo dice? Ma io lo dico, ma lo dice lei, lo dico io, allora? Allora, Confindustria appartiene alla categoria dei suini che, assieme ai sindacalisti, allora... La Confindustria appartiene a suini, cinghiali, sindacalisti, suini, maiali. Ma lei è malato. Politici, suini, porci. Vabbè, lei è un malato. Io non capisco perché il servizio sanitario li fa circolare ancora. Categoria di cinghiali, ok. Sì, vabbè, ma il servizio sanitario ancora non è intervenuto da lei, il servizio sanitario nazionale, il servizio di pronto intervento rapido. Dice questo. Lei deve parlare anche di queste cose. Perché non ma quali male? Cose? Ma quali? Ma quali lei cose? Lei è pagato con i soldi pubblici. Ma non è così, lei si sbaglia. Ma non è così, no. Anche con i soldi pubblici. Ma guardi, in una parte molto minima con i soldi pubblici. Comunque. Ma anche se è un euro, anche se ma un io euro, posso anche essere, al di là della principio. Sua al di là della sua follia che è conclamata, io posso anche. Lei è folle. Io posso anche essere d'accordo con lei. Il problema fondamentale è che non è con i soldi pubblici che sopravviviamo noi e sopravvive il Sole 24 Ore. È una allora perché non ci rinunciate? Ma guardi, fosse per me dovrebbero rinunciare tutti, va benissimo, il Corriere della Sera, gli altri. Che significa tutti? Che significa tutti? Esistono le agevolazioni fiscali, come lei sa bene, per la carta, per le spedizioni, è un discorso troppo lungo e poi lei ha bisogno in questo momento di un intervento di infermieri e dunque non possiamo trattenerci più di tanto. Non me moleste moschito. Non mi molesti moschito. Anche il suo aiutante bolscevico comunista di merda, Sciacquino Zerbino? Sì. Sì, forse ha dimenticato qualche aggettivo, però sì, confermo, pagato dalla Confindustria. Perfetto. Allora, voglio sapere dal sindaco di Bari, Michele Emiliano, un carissimo abbraccio. Ciao Michele, come stai? Come state? Beh, come qui siamo nell'occhio. Guarda, sindaco, che sabato vengo a Bari. Oddio, che devi fare sabato a Bari? Sì, perché devo seguire il comizio di Berlusca da Bari. No, anche noi non stiamo nella pelle. E quindi se ci sei vediamoci. Sto affittando i balconi del comune. Addirittura. Sì, perché per ripianare dai danni che Berlusconi ci ha fatto ho dovuto affittare i balconi. E perché? Che danni ha fatto Berlusconi? I danni di 20 anni di Mandolè. Questa roba qua. Ma viene a Bari, dovresti essere contento perché porta un sacco di turisti, di cose, sì, di afflusso verso Bari, gente che va a cena, gente che va al ristorante. Berlusconi è una grande attrazione, quindi appunto noi ce la giocheremo innanzitutto dandogli il benvenuto, ovviamente. E beh, no, ma quello è chiaro, il sindaco, adesso non diciamo, lei subito ha fatto un benvenuto, non ha fatto il benvenuto, ha detto da 20 anni ci ha rovinato, è da 20 anni che ci rovina. Vabbè, la parte che devo fare me l'hanno assegnata. Facciamo Bari ringrazia Berlusconi. Il problema è che siccome è nota la mia simpatia per il vecchio zio, sì, devo tutelarmi soprattutto dai miei e per evitare che passi per uno di quelli che gliene perdona troppo, ecco. No, appunto, però scusi, da sindaco di Bari, Emiliano, facciamo un bel annuncio di benvenuto a Berlusconi. Welcome to Silvio, bentornato a Bari. Bari, Bari ti ama. Bari ti ama, una parte sicuro. Una parte però sì. Però devo dire che c'è anche un'altra parte che meglio non parlare. Lo darei a bastonate, lo rincorrerei a bastonate. No, perché sono bravi qui, una città di persone per bene. A Bari ci sono belle donne, questo possiamo dirlo a Berlusconi, no, Emiliano? Assolutamente sì. Bari ci sono belle donne, questo Berlusconi lo sa. Berlusconi lo sa che a Bari ci sono belle donne. Ne è consapevole, ha dei vecchi trascorsi con qualche barese, no? Un qualche barese un po' così, no? Qui siamo signori. Limitiamoci a assolutamente. A proposito, noi evitiamo di parlare di cose private, cerchiamo di parlare con le donne. Questa l'ho copiata da Agnelli, quindi voi che lavorate per Confindustria bellissimo. Ma la signora Daddario si vede lì ogni tanto? Come? Che dici, Palenzo? No, dico, la signora Daddario la si vede lì ogni tanto? Ma adesso non so dove abita, che ne sai, Emiliano, da Daddario? No, magari l'ha vista in giro. Emiliano fa una vita monacale. Beh, questo lo so. Cioè, siamo a livelli di proprio di vita monacale. Pulisce le strade, Emiliano. Mesi fa ero lì a Bari con lui. La notte stavamo tornando. Adesso non è che l'istituto luce di Emiliano questo qua, sembra l'istituto luce. Bisogna fare propaganda perché l'ho fotografato. Ma non c'è nessuna propaganda. Ha trovato una pianta, te lo giuro, una pianta fuori dal secchio. Sì. L'ha presa a forza, scardinandola proprio. Sì. La forza brutta, come può essere Batman, è considerato un eroe a Bari, e l'ha buttata del coso della differenziata. Praticamente, siccome temevo che la stampa internazionale rilevasse questa pianta secca, un rifiuto fuori dal cassonetto, temendo un attacco della destra, mi sono salvato buttando tutto nel cassonetto, tutto qua. Senta, adesso mi dica una cosa, l'incontro è Radio Emiliano. Radio Emiliano Libera. L'incontro Renzi D'Alema, come l'ha visto lei? Bene, sì, una cosa positiva per il partito? Devo essere sincero, bene. Bene, contento. Molto contento, Contento per chi Renzi, ma per chi è contento? Questo partito deve mischiare le cose vecchie, le cose nuove, non deve buttare via niente, però deve venire fuori una cosa nuova che funzioni. Il fatto che i due Renzi è il futuro, siano parlati anziché dirsene di tutti i colori è una cosa molto importante. Renzi è il futuro, me lo dica chiaro, secco. Renzi è il futuro. È il futuro, devo dire che È ridiventato renziano, visto maturato, è maturato, cioè non è più stronzo come prima, le dice lei, non è più arrogante. Lei lo considera... Io avevo il peggio che avevo detto di Matteo è che era un po' politicamente anaffettivo e anche arrogante con D'Alema, e devo dire molti altri che sta facendo in questi dimostra che invece giorni mi fa revocare questo giudizio un po' severo che avevo dato tempo fa. È ridiventato un po' renziano, diciamo la verità. Adesso finalmente ha capito che questo è un gioco dove bisogna stare insieme, bisogna giocare di squadra, bisogna avere umiltà, ma anche grande consapevolezza dei propri mezzi. Dunque è diventato più affettuoso, è diventato di nuovo affettuoso, ha riacquistato un po' di umanità. L'ho visto in forma, lucido, ecco, al punto da consigliargli, sì, anziché di parlare con Bersani sui giornali o attraverso terze persone, di parlarsi direttamente col segretario. Ha fatto con D'Alema, deve fare con Bersani. Allora, traducendo, caro Parenzo, perché poi io alcune cose le so, Emiliano in realtà è andato con Bersani, sì, perché comunque con Renzi c'erano delle situazioni un po'. Però, insomma, ha capito adesso che Bersani ha perso la partita e bisogna, non dico salire sul carro di Renzi, no, per carità, perché poi Emiliano c'ha il suo elettorato, eccetera, lì in Puglia. Però, insomma, Renzi è l'uomo, è il futuro, è l'uomo forte e lui vuole essere il suo ambasciatore al sud, vero Parenzo? Il suo ambasciatore. Sì. Cioè, rappresenta Roma, vero o no, Emiliano? Beh, io ho 53 anni, Renzi ne ha 38, ho una vita molto complicata che mi ha impegnato su molti fronti . E io possa fare l'ambasciatore, no, l'ambasciatore di Matteo è difficile, no, quello l'ambasciatore che posso fare è il mio dovere, cioè tentare di fare in modo di presentare per il futuro un sud che sia fatto di cose positive, utili al paese. Ma quanto è grillino Renzi? È molto grillino secondo lei? Più grillino di del PD? Per esempio, mi piacerebbe discutere con Matteo di qual è la sua idea nel rapporto con questo movimento. Lui è molto severo con il Movimento 5 Stelle. E capisco che lui spontaneamente vuole parlare al mondo di Berlusconi, lo fa istintivamente, però deve considerare che esiste tutta un'area di persone che si occupano da sempre del disagio, delle cose complicate, che parla lui parla con Berlusconi e lei parla con lui, non deve trascurare, ecco tutto qua. Ma il ticket Renzi-Emiliano è possibile? Per le prossime politiche che tanto saranno tra poco? Ti piacerebbe? Un ticket a due persone sarebbe sbagliato come il biglietto di una sola persona che diciamo un po' era stato l'esordio di Matteo. Noi dobbiamo smettere di pensare che singole persone possono risolvere tutti i problemi. Ma no, ma che c'entra singole persone? Bersani ha ragione. Due personalità, ecco, così. Nonostante però le piacerebbe un Luigi, credo che lui in questo abbia ragione. Ma è un ticket Renzi Emiliano, le piacerebbe o no? Ma se si tratta di andare a fare una battaglia per questo paese, le piacerebbe? Lo farei volentieri. Oh. Non ho prevenzioni ideologiche. No, le piacerebbe un ticket Renzi Emiliano. Dico che però ho l'impressione che non è una partita che si risolve lanciando ticket. Ma no, vabbè, ma questo è chiaro, questo non è che si risolve tutto così, però quello bisogna presentare a un certo punto. Cioè, diciamo che abbiamo fatto una lunga chiacchierata io e Matteo, credo di avere capito che lui ha imparato un sacco di cose dalla sconfitta. La sconfitta ha questa capacità straordinaria. Oh, ecco, è diventato più umano. Di insegnare le cose. È diventato più umano? Mentre quando si vince sempre, alle volte è vero, ma è diventato più umano? Sì. No, secondo me è molto più... Non è più anaffettivo. No, l'umanità non gli è mai mancata. Quello che gli è mancato, io parlavo infatti di anaffettività politica, cioè lui ha capito che questo è un gioco, soprattutto a sinistra, dove non si può giocare da soli, dove bisogna avere la capacità, la furbizia anche, di dialogare con tutti, di non strappare sempre le cose che si può evitare di strappare, e soprattutto lui deve considerare che senza un grande partito nazionale... che abbia la struttura del Partito Democratico, è impossibile governare. Ma questo l'ha detto, vuole rimanere nella sinistra, nel PD. Lui deve stare con noi, deve rimanere con noi e deve tener conto che esistono dentro il Partito Democratico anime diverse e lui le deve sapere rappresentare tutte. Renzi Emiliano sarebbe un buon ticket, me lo dica, sarebbe un ottimo ticket. Piace a voi due, io ci sto. Bene. Senta, ma noi lo mettiamo però fino adesso Emiliano ha detto due cose: uno, che bisognava andare un incarico a 5 Stelle, cosa che non è avvenuta; la seconda cosa è, ha detto, se c'è un accordo con PDL esco dal partito. Qui mi sembra che l'accordo con PDL si potrebbe pure fare, cara. Una parte del partito allora io dico che non è detto, perché il nuovo Presidente della Repubblica sicuramente avrà un'impostazione diversa cioè deve dare l'incarico a Bersani, secondo lei? No, dico che potrebbe che la partita si azzera, questo è assolutamente ma vero, potrebbe mandare Bersani alle Camere, sarebbe giusto? Napolitano ha sbagliato a non mandarlo? Io faccio il sindaco, diciamo l'equivalente di un parroco rispetto all'elezione del Papa. Ma secondo lei l'ha detto Mineo l'altro giorno? Né del nome del Papa né di quello che il Papa deve fare. Il Presidente della Repubblica, poi io sono anche un magistrato, sia pure in aspettativa. Per noi il Presidente della Repubblica è il riferimento fondamentale, quindi ne parlo con grande. Ma lei chi metterebbe al Quirinale, che si è aperto il Toto Nomi del Quirinale? Chi le piacerebbe? Preferisco evitare. Ma no, ma come no? Non ho il ruolo per parlare. Ma tanto non vota lei, che gli frega? Mica, una preferenza sua, signor Emiliano, su. Mi piacerebbe una donna. La Bonino? Non lo so, io la Bonino la conosco e la stimo. Non le parole, immagino chiaro. Che ce ne siano anche altre alla stessa. Che ne so, mi faccio un nome che le piace di Bonino. Il nome non lo faccio perché la Cancellieri. Insisto, la Cancellieri è persona straordinaria. C'è anche la Finocchiaro, cioè, ci sono tante persone, tante donne in gamba. Bisogna che gli italiani comincino a ricordarsi che non esistono solo uomini, ma anche donne. Per me, questa è una stupidaggine, Emiliano. Questa è una stupidaggine. No, ha ragione, è vero. Ma no, non è una stupidaggine. Ma no, ma le donne al Quirinale per forza, se ce n'è una. Ma no. Te immagini che nel mio consiglio comunale c'è due sole donne. È colpa vostra anche. È anche colpa vostra. Pubblicità. È meno male che le abbiamo elette nella lista civica del sindaco. Vabbè, no, troppo facile. Pubblicità, torniamo subito. La Zanzara. Voglio essere lapidario. Lei è una persona simpatica, ma è uno scacciafighe. Quando c'è della figa in trasmissione, faccia parlare Cruciani, per favore. Se no attaccano, non rispondono più. Hai capito, David? Questo è figa e presa già la querela per diffamazione aggravata, lo sai? Sì, ma dove sei? Ti sei spostato ovviamente adesso, no? L'avvocato Trucco, sono sul cellulare. Ah, ecco, sì, no, tanto per capire, no? Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Non abbiamo fatto uno scherzo a Michele Emiliano noi, Parenzo, prima o poi lo faremo. È difficile da tanare, però ci lo potrebbe chiamare Emiliano. Non lo so, da chi è che si potrebbe far fregare? Sindaco, da chi si potrebbe far fregare lei con una bella telefonatina? Beh, da Napolitano probabilmente. Napolitano, sì. Risponderebbe lei a Napolitano? Sull'attenti, immagino. Sull'attenti, Napolitano infatti è una bella cosa da fare. Tanto lo sai che lei non... Tanto lei che potrebbe dire a Napolitano di sconveniente, tante cose, perché lei è un chiacchierone. No, in privato è un chiacchierone. Intanto ci ha detto che vede molto bene questo possibile ticket Renzi Emiliano. Noi abbiamo trovato la nuova quadra del centrosinistra, Parenzo. Zitti, abbiamo trovato una nuova quadra, perché guarda che è una bellissima idea. Renzi leader e dunque prende i voti berlusconiani, eccetera eccetera, svuota la destra. Emiliano fa il lavoro sulla sinistra. Io preparo gli spogliatoi, preparo le maglie. Ma no, vabbè, le maglie adesso, Emiliano, no, non no, si butti no. Giù così. Lei ha fatto magistrato, in fin dei conti Renzi che ha fatto nella vita? Lei almeno una cosa, un mestiere ce l'ha o sbaglio? Certo, è anche un bel mestiere. Renzi che mestiere c'ha? Ma credo che faccia nell'azienda di famiglia. Delegato di un'azienda. Sì, di famiglia. Devo dire che mi è successo pure a me di lavorare in un'azienda della mia famiglia. Di famiglia. Però comunque lei fa il magistrato, quell'altro insomma, alla fine ha lavorato poco, diciamo, nella vita reale, no? Cioè nella vita concreta. Dunque ha bisogno di uno come lei, populista, casinista del sud, che prende i voti dei grigi, che va davanti alle fabbriche a fare casino. Lavoro. Ma non gli stai facendo un favore? No, ma sì, invece sì. Andiamo davanti alle fabbriche a condividere delle persone. Vabbè, sì, abbiamo capito, però insomma, io non ci riesco a scherzare. Ma no, ma sto dicendo così, cioè Renzi ha bisogno di qualcuno che faccia un po' di lavoro sporco a sinistra. Su, diciamo la verità, cioè, qui lei è perfetto per questa roba qui, perfetto. Ma veramente io a Bari prendo un sacco di voti di destra pure. Ma sì, certo, perché poi siamo competitivi, perché poi lei sull'ordine, su queste cose qui, sulla questo io sono un po' severo anche tutto con me stesso, con però. Se stesso è severo. Lei ha mai messo la macchina in seconda fila? Sì. Io non ho la macchina, ho solo la moto, quindi è stato un provvedimento saggissimo. Quante multe prende lei? Da quando è sindaco? Prima... Devo essere sincero, prima di diventare sindaco le ho prese le multe, figuriamoci. Quante ne prendeva? Poi, tante? Da quando sono diventato sindaco. Vabbè, quella è difficile. Ripeto, la mossa principale. Se l'auto toglie poi, casomai. È stata eliminare la macchina. L'ho venduta a un mio amico. Una vecchia station wagon a diesel. Senta, ha visto da magistrato, io lo faccio dire, che fine che ha fatto Ingroia. Che fine. Che finaccia, insomma, una brutta fine. Come posso su. Dire, la politica è un mestiere difficilissimo, che se ne dica. Sangue e merda. Basta pochissimo per commettere degli errori e per compromettere la propria immagine. Antonio rimane però una persona. Ma adesso lei vuole recuperare tutti, pure Ingroia. No, dico solo che è chiaro che. È finito. Dire, mi dispiace perché io e lui siamo coetanei. Ma lei l'avrebbe mandato a fare Marsala, se non mi ricordo male, io ero alla procura di Agrigento. Ma lei l'avrebbe mandato a fare l'esattore a Palermo se fosse stato uno del CSM o se è stato un accanimento nei suoi confronti? Non lo so, io adesso credo che il CSM abbia regole molto severe adesso sul rientro dei magistrati e sulla concessione delle aspettative. Quindi è chiaro che però io se Antonio tornasse a fare il magistrato non lo vedrei affatto come un pensionamento, anzi. Rimane uno una delle funzioni più belle ed emozionanti che... Cioè lei non si deve sentire un pensionato anche ad Aosta con gli stambecchi lì? Assolutamente no, assolutamente no, in ogni luogo c'è bisogno di uomini. Chissà su cosa indagherà adesso Ma che fa ad Aosta? Cosa mette sotto inchiesta una slavina, un coso di nere? Le cose cosa dimenticate che la procura di Aosta mise in piedi una... E come no, mi ricordo benissimo, come no? Un'inchiesta molto complessa e forse anche esagerata quell'inchiesta, infatti finì nel nulla. Non avendo molta pressione da parte degli altri procedimenti, ad Aosta si dedicarono a questa indagine molto... Beh, dunque è un posto ideale per Ingroia da un certo punto di vista, perché da Aosta può scatenarsi su un'inchiesta sull'universo mondo. Però ecco, siccome è in una situazione difficile, anche perché questa decisione del CSM lo mette in una condizione di difficoltà. Vabbè, c'è il caso Cogne, c'è sempre il caso Cogne, Emiliano. Io credo che comunque, ecco, occorre regolamentare diversamente il rientro dei magistrati. Vabbè, ma adesso lei la vuole mettere sul serio. No, Enzo, com'è la canzone, com'è la canzone che ti cantano? Sì. Come funzionari pubblici, non come magistrati. Cioè lei non rientra, fatto politica, non tornerà mai a fare magistrato. Tornare a svolgere le funzioni è dura. Lei non tornerà mai a fare magistrato. Può rimanere senza lavorare, perché è una persona per bene, certo. Non è che smette di fare politica e si mette all'angolo di strada. No, quello no. La carità. Però lei non tornerà mai a fare magistrato. No. Io personalmente, se potessi, tornerei a fare il magistrato, però non posso nascondere che se qualcuno avesse delle perplessità sul ma sul tornerebbe o no? Io tornerei a fare il magistrato, però non è giusto. Capisco chi ha delle perplessità. Dentro di me io so che sarei un magistrato comunque. Com'è la canzone che ti cantano a Bari, Parenzo? La solita canzone che ti cantano a Bari. Finché vivrò, ma dilla tutta, questa è la zanzara, non fare il prudente. Finché vivrò, odierò com'è che fa? Emiliano, no, tanto non abbocco. Come fa sta canzone? Io ho già problemi piuttosto seri con questo gruppo imprenditoriale. Finché vivrò, questa la cantano i suoi amici tifosi del Bari. Lei dovrebbe seguire l'esempio. No, questa la sanno tutti a Bari, però è irripetibile in radio. Ma la cantano tutti anche con gioia, forse? Beh, la cantano con grande gioia. Adesso sì. non prendiamo di mira chi non può difendersi. No, per carità. Anche perché poi quando si difendono. So cazzi là, come si dice in genere. Senta, però i suoi amici grillini oggi non hanno combinato una grossa nei confronti napoletani. Però posso dire una cosa a proposito dei grillini? Il fatto che la mia idea non sia stata minimamente presa in considerazione, soprattutto da voi due che siete dei leader di opinione assoluti, l'Italia non c'ha un governo per questa ragione. Vabbè, adesso non è perché se avesse pensato probabilmente avremmo già un governo. No, adesso questa qua e lei vuole girare la frittata. So, lei insiste sull'incarico ai grillini, ma era un modo per stanare i 5 Stelle. Io lo capisco la sua qual è la cosa, però era un modo per capire. È una furberia, ma va benissimo, andava benissimo. Di governo del Movimento 5 Stelle oppure no, questa verifica gli italiani secondo me la vogliono, sono curioso io e come molti altri italiani. Ma lei è il più grillino del Partito Democratico? Considerato il più grillino? Sì, decisamente. Probabilmente sì, perché in realtà il metodo col quale il Movimento 5 Stelle si è affermato assomiglia molto a quello che abbiamo adoperato noi. Ma lei ha mai sentito Grillo per telefono, no? Ma qualche volta, ma parlando di rifiuti soprattutto, perché ero in cura. Ma anche recentemente? Anche recentemente? Rifiuti zero e quindi abbiamo avuto una conversazione qualche anno fa. Ma anche qualche anno fa, ma di recente no, da quando è entrato? No, di recente no. Di recente no, le piacerebbe? Perché è sempre stato molto educato, cortese e io non ho mai avuto nessun particolare problema. Quando è venuto qui a Bari per fare un comizio, durante la campagna elettorale del 2009, io lo andai a salutare. Lui in mia presenza disse che ovviamente io ero ostaggio del Partito Democratico e sebbene fossi una brava persona, insomma, questo non cambiava il giudizio politico su di me, però disse che io ero il meno peggio che poteva capitare a questa città e quindi tutto sommato mi sono accontentato. Senta, Barca sarebbe un buon segretario per il Partito Democratico? Beh, se si iscrivesse al partito potremmo cominciare a ragionare. Ah, perché ancora non si è iscritto, dice lei. Non c'è perché, cominciare direttamente a fare il capo è dura. Dunque deve fare un po' la gavetta, dice lei. Io per esempio sono uno dei fondatori del partito e non mi sentirei pronto ad un incarico così difficile, anche perché fare il segretario del Partito Democratico... L'erode questa cosa di Barca un po', che uno si presenta così il primo arrivato e si candida alla segreteria, no? Giusto, no, ma è corretta questa cosa. Comunque fa parte anche per ragioni familiari di una tradizione antichissima. Però dice lei, no? Italiana. però dice lei ed è una persona molto preparata, io ho avuto modo di verificarlo come ministro, è uno che ha un'idea molto chiara anche del ruolo che il Sud può avere nel riscatto italiano, ed è una persona con la quale si lavora molto bene. Senta, non mi dica che lei ha pure lei ha la teoria per cui i suicidi in giro per l'Italia un po' di responsabilità il governo Monti ce l'ha. No, adesso questo sarebbe incredibile. Il governo Monti ha delle responsabilità. Vabbè, ma non c'è sui suicidi quando la gente si ammazza. Ha applicato delle teorie economiche che hanno portato una recessione più forte di quella che quando uno si ammazza, un po' di responsabilità Monti ce l'ha, sì o no? No, assolutamente. No. Io guardi, ragionare in questi termini su delle cose drammatiche, allora a questo punto, ogni volta che una persona in difficoltà dovesse fare un gesto drammatico di questo tipo, anche il sindaco della sua città, bravo, siamo tutti responsabili. Allora, fra poco Renzi alla 7, magari sentiamo qualcosa per chiudere. Allora, viva Renzi Emiliano ticket, giusto? Dai, su. Io, ripeto, escludo qualunque tipo di logica di ticket. No, però, ho capito, ma tanto ci sono i ticket. La situazione dovesse precipitare e ci dovesse essere la necessità di tornare alle elezioni, è evidente che a quel punto bisognerebbe mettersi tutti in posizione di combattimento, su questo non c'è dubbio. E dunque le piacerebbe come idea, giusto? Le piacerebbe. Io a quel punto avrei quasi finito anche di fare il sindaco. Renzi, alla 7, sentiamo Renzi. Gli spettatori nazionali, dall'inaugurazione delle case popolari agli interventi sulle strade, ma perché lei ha dato una notizia che è sconvolgente, quella di 5,7 milioni di euro. Vabbè, adesso parlano delle cose. Sindaco, a presto. Un saluto a tutte e due. Ciao. Buona serata. Pubblicità. La Zanzara. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Nell'estate mi tortura. Renzi da Mentana dice che bisogna andare a votare subito perché non c'è possibilità di fare un governo, ma la strategia di Renzi ormai è chiarissima. Sono probabilmente un po' arteriosclerotico alla mia età, ma spero che anche in questo caso si faccia veloce, e quindi vorrebbe dire spero che il capo dello Stato rappresenti tutti. Il capo dello Stato non è una bandierina che ti metti in tasca a te, cerchi di fare una lei persona. Ha un nome per il capo dello Stato? No, assolutamente, non tocca a me, non sono neanche un grande elettore, sono un piccolo eletto di periferia, quindi non sono un grande elettore. Spero che sia una persona che faccia bene per l'Italia come ha fatto Napolitano. Perché non è un grande elettore? Per molti aspetti è naturale, perché non c'è mai stato un sindaco tra i grandi elettori, però era venuta fuori questa ipotesi. Ma come era venuta fuori? Era venuta fuori, cioè, dai consiglieri le ha dato regionali degli affidamenti della Toscana, mi hanno chiesto se volevo fare il grande elettore della Toscana, le dico la verità, l'avrei fatto molto volentieri, perché a me quelli che dicono tanto non lo volevo fare. Quelli dopo mi hanno chiesto, chi gliel'ha chiesto? Perché consiglieri non chiesto regionali del mio partito. E secondo lei chi ha, perché lei ha detto c'è stata una telefonata a Roma, Bersani ha detto chiedete alla Telecom, ce ne sono state molte di più, molte di più da Roma. Bersani lascerei il discorso Telecom che apre 15 anni di storia, lasciamo stare, guardi, lei dice Telecom, lasciamo stare la Telecom in la generale, scalata, i capitali coraggiosi, e rimaniamo a quello che è accaduto in questi giorni. C'era un'ipotesi, mi è stato chiesto una disponibilità, io l'ho data volentieri perché è bello. Ma lei è un problema nel PD? Lei crede di essere un problema ancora dentro il PD? Ma perché? Perché noi vediamo una cosa che da fuori del PD tanti dicono ci fosse Renzi, da dentro il PD no. Io penso che il PD prima smette di parlare di Matteo Renzi e parla dei problemi degli italiani, meglio è. Lo dico con amicizia a Bersani, caro segretario, smetti di preoccuparti di me, anzi guardi, già che c'è, smetta anche di preoccuparsi di sé. Perché se inizia a preoccuparsi dell'Italia, se finalmente diamo un governo all'Italia, i destini personali delle persone vengono dopo. Quello che faccio io da grande non interessa a nessuno. Quello che fa l'Italia interessa. E quindi anche quello che per la proprietà transitiva, neanche quello che farà la grande Bersani. Perché ha detto di preoccuparsi meno di sé? Perché secondo lei sta anteponendo la sua prospettiva di governo personale? Io dico soltanto che qualunque sia la soluzione, quello ha detto. Chi ha responsabilità oggi ha il dovere morale verso gli italiani di rendersi conto che anche se i numeri macroeconomici vanno meglio, lo spread abbiamo visto che sta basso, 300 eccetera, ha detto che Bersani dovrebbe, no? Parenzo? Sì. Non stavi sentendo o stai facendo i cazzi tuoi, scusa? No, ho perso l'ultimo secondo perché ero a Villa Borghese. Mio nonno in carriola ha perso l'ultimo secondo, cioè non stavi ascoltando, dai su. No, l'ho perso perché non c'era campo a Villa Borghese. Ma che campo a Villa Borghese? Cioè, dai. Ma che stai a fare a Villa Borghese poi? Scusa, che fai? No, hai i giardinetti di Villa Borghese? Che stai a fare? Beh, sto facendo come Napolitano farà tra qualche settimana, mi pare di capire nelle intenzioni della signora Grillina. Siccome sono sul taxi, il taxi ma ti devo spiegare il percorso, il taxi no, Oscar da Modena, dai, Oscar da Modena, su Oscar. Basta, da Modena. Adesso vi devo chiedere un punto, dica. Sì, vabbè, ho capito. Buonasera Cosco. Sì, stare fermi durante la trasmissione no, è impossibile, eh. Oscar da Modena, dai, su, Oscar. Buonasera Cosco Tani. Vada. Niente, volevo intervenire per... Sì, però non ci faccia mosciare tutto. No, tranquillo. Vada. Non lo so, c'è sta voce così. Volevo parlare della mia esperienza con l'urina. Con l'urina. Dopo la vostra trasmissione ho fatto un esperimento che penso sia importante segnalare. Lei ha fatto un esperimento, sì. Poi? Certo. Visto che non riuscivo a assumerla con le indicazioni del signor Paolo, mi sono fatto dei ghiaccioli. E questo sistema ha funzionato. Dei ghiaccioli di urina? Lei ha fatto i ghiaccioli di urina? Sì, ghiaccioli di urina. Vabbè, ma lei va ricoverato subito. Cioè, non penso che no, scarichi i ghiaccioli di urina, amico mio. Lei ha sentito i consigli del signor Banoli, per carità, va benissimo. Certo. È diventato quasi un mio amico, però i ghiaccioli di urina no. I ghiaccioli di urina no, le mando. Ma io sono basito, ma. Ma le mando in asse a casa, noi abbiamo capito qual è. Quando farei il gelato alle feci? Ma perché li attiriamo tutti noi? Ma ci sono delle domande da farsi. Perché a forza l'economia non telefona a quelli che hanno i ghiaccioli di urina? Perché? Perché a Focus Economia non telefona nessuno, innanzitutto perché non ci sono gli ascoltatori. Questo è già un'ottima. Qui a destra, grazie. Perché? Cioè, io mi domando perché? Perché ad esempio il signor Barigioni non si è mai posto il problema di invitare quel bevitore di drink di urina? Perché? E uno poi si chiede, ma perché telefona questa gente da noi? Perché? Forse qualche problema ci sarà se chiama uno. Però il signor Oscar da Modena ha recepito un consiglio che è venuto da Radio 24, dalla Zanzara, sì, in particolare. Utilizzare ogni tanto l'urinoterapia. Lei aveva un herpes, caro Oscar. Dunque, leccando il ghiacciolo l'herpes se n'è andato. E che? No, non mi può dire che colpisce, è andato via l'herpes, Oscar. Esattamente. Cioè ha ragione Vanoli. Certamente. Hai capito? Prezzo. Ma ho capito, ma mi fa schifo tutto questo, mi fa ribrezzo uno che la mattina fa la pipì e poi aspetta che si raffreddi e mette la pipì in frigo facendo il ghiacciolo. Vabbè. Traffico. La Zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noce. Allora, alla radio della Confindustria, caro Parenzo, l'urinoterapia fa proseliti. Oscar da Modena dice che ha provato addirittura a fare i ghiaccioli, caro Parenzo. Alla radio della Confindustria vengono consigli favolosi per la salute, caro Oscar. Cioè lei ha appreso dalla Zanzara che poteva fare l'urinoterapia e via giù con l'urinoterapia e via giù a bere piscio e a fare i ghiaccioli con l'urina, giusto? Mi sono ricordato di un'esperienza da bambino, sì, dove mia nonna mi, sì, faceva fare la pipì, sì, e la dava sulle orecchie dei conigli quando avevano della tipo scabbia o qualcosa del genere. E ai conigli, appunto. Beh, Parenzo, impara, eh. Ma erano conigli, ma erano animali. Scusi, Grillo, io dico una cosa, signor Grillo, però abbia pazienza, questo qua faceva lezione al vostro movimento. Ma allora è giusto bere il piscio, signor Grillo? No, ma è l'unica cosa che c'è da bere. Ma stiamo scherzando? Ma uno vuole bere l'acqua, ma volete l'acqua inquinata, perché c'è la gente che va a lavorare, inquina l'ambiente. Beh, ma è uguale. Bisogna bere il piscio, ma bisogna bere, è una cosa fantastica, anche quel sapore un po' acidulo, giallo, meraviglioso, vengono fuori tutti i denti gialli, è bellissimo, è una cosa, ma siete voi che non capite, in Germania lo fanno. Ma come lo fanno? In Germania dove? In Germania già lo fai, e poi lo devi mettere in rete, devi dare i consigli, non devi inquinare, devi fare la pipì, metterlo subito nel freezer, cominciare a leccare tutto. Mia moglie non voleva, l'ho obbligata a farlo, mi continua a tirare i piatti in faccia, non capisco perché, ma riprendo tutto. Come riprende tutto? Riprendo tutto, ogni volta che si arrabbia con me mi tira i piatti. Le ho fatto bene del piscio, l'ho legata al letto, le ho messo un imbuto, le ho fatto bene il piscio. Si è arrabbiata, voleva andarsene di casa, una cosa pazzesca. Vabbè, ma questo qua è una follia, ma ogni volta con questa storia qua delle riprese? Devo mandare tutto nella rete, tutto in rete. Vabbè, ma oltre alla sua infortuna alla gamba, lei ci ha detto prima che è caduta e ha ripreso tutto, che è successo d'altro? L'altro l'altro giorno è arrivato Gianroberto Casaleggio a casa mia, stava aprendo una finestra, gli è caduta la finestra addosso, si è tagliato completamente, ha detto Beppe portami all'ospedale, gli ho detto col cazzo, prima devo riprendere tutto, era disperato anche Casaleggio, tutto tagliato, pieno di tagli, infatti diceva no ma questa volta veramente sto male, continuava a dire Casaleggio, e gli ho detto ma chi se ne frega, in Germania lo fanno, se cade un vetro in Germania lo fanno, se allora, l'amico, futuro, anche in Svezia è il futuro. L'amico Boris Sollazzo su Twitter scrive, grazie Grillo, scrive da Giuseppe Cruciani si parla di ghiaccioli di piscio leccati con profitto da ascoltatori con l'herpes. Effettivamente il signor Oscar da Modena, dice che è guarito dall'herpes grazie a questi ghiaccioli, o no? Certo, io Cruciani la ritengo un allenatore della mente, mentre quel signore che ha di fianco è appena un massaggiatore. Ah, io sono un allenatore della mente, ma io mi pento di aver invitato il signor Banoli che ha consigliato queste cose a lei. Lei ha fatto i ghiaccioli, ma che ha fatto poi con i ghiaccioli? Scusi, signor Oscar. Ho fatto che ho provato a assumerli e ho riscontrato che l'herpes se n'è andato in 2 giorni. Ma magari se ne sarebbe andato lo stesso l'herpes in 2 giorni senza fare i ghiaccioli al piscio, scusi. Di molto cattivo gusto. Questo sicuramente di cattivo gusto, Assolutamente. Vabbè, molto cattivo gusto. Aspetta, fermi tutti, collegamento con il Quirinale. Ma c'è o non c'è? Sì, ci dovrebbe essere. Presidente? Presidente? Io saluto a lei, caro Cruciani. Oh, buonasera. Buonasera a tutti. Presidente, mi scusi l'orario alle 20:23, ma solo qualche minuto prima della cena, della solita cena con la signora Clio. Abbassato il fuoco. Ha abbassato il fuoco, grazie. Noi vogliamo, per una volta per tutte, capire quello che è successo oggi con la signora Lombardi. La signora Lombardi oggi, capogruppo 5 Stelle, ha detto che lei avrebbe detto, scusi il gioco di parole a ripetizione, in un incontro, insomma, che è stanco, che non vuole fare più presidente, che vuole stare con i nipotini, che eccetera. Questo è vero oppure no? Mi vedo a questo punto costretto, per rigore e per verità istituzionale, esatto, a smentire categoricamente quanto affermato dalla signora che lei ha orora citato. Oh, ecco, benissimo. Nulla di ciò ho detto, ho consigliato alla signora di applicarsi, di studiare le regole costituzionali, questo sicuramente serve. Di colmare quel vuoto che il Movimento 5 Stelle indubbiamente sta manifestando. Questo è importante, cioè smentisce di avere parlato del suo futuro, questo vuole dire, presidente, non ha parlato né di giardinetti, né di nipotini, né di voler fare il nonno. Attualmente è tenere il timone diritto e guidare in questa procellosa situazione, procellosa, certo, un'Italia che necessita di persone serie, di capacità. Ecco, di improvvisazione. Certo, no, ma scusi, sono presidente, ma proprio per chiudere questa discussione, ma lei che impressione ha fatto questa signora Lombardi? Sembra un po' una maestrina. Scusi, è un mio giudizio, so che lei, per carità, deve avere un ruolo più distante, istituzionale, è pur sempre il capogruppo alla Camera di un partito politico che ha preso il 25%. Ahimè, persone inadatte in luoghi inadatti. E con questo direi a Napoli non la metteremo neanche diciamo dove, presidente? Ma neanche a una bancarella di pesce. Beh, insomma, meno male che doveva tenersi un po'. Un giudizio durissimo. Scusi, presidente, che si mangia stasera con la signora Clio, giusto proprio per capire. Solo una piccola precisazione a proposito di chi dovrebbe andare al parco con i nipotini. Sì, prego. Onida. Beh, come no? Ma c'è Onida, povero signor Onida. Maestro, da quando ha fatto quell'uscita, Onida deve andare al parco con i nipotini. Cioè, inadatto al ruolo di saggio. Inadatto assolutamente al ruolo di saggio. E dunque, ripeto, voi mi avete veramente illuminato con quella telefonata. Ancora mi chiedo come io abbia potuto distrarmi firmando quella carta nominandolo alla Corte Costituzionale. E vabbè, che si mangia stasera, presidente? Che si mangia? Questa sera abbiamo trovato raramente si individuano e si trovano i cannicchioli. E vabbè, i cannicchioli già. È un frutto di mare piuttosto raro, che però va gustato con il giusto condimento, un soffritto leggero di cipolla, una spolveratina e dopo una pasta fresca non troppo che mantenga la cottura. Beh, insomma, sì, no, è parecchio. Si tratta bene, però. Beh, lei comunque ci dice che sta già coi piedi, soliti piedi, Presidente. Le ho detto, abbassate il fuoco per rispetto ai vostri ascoltatori, a voi operatori dell'informazione che con grande attenzione seguite l'evolvere politico e civile del paese, e ovviamente agli ascoltatori cui va il mio augurio più vivo e sincero di una piacevole serata, se possono, accompagnata così da una piacevolezza enogastronomica come il sottoscritto e la signora Clio. Un abbraccio, Presidente, a presto! A voi, viva l'Italia! Grazie! Smentita la Lombardi su tutti i fronti, smentita. Ma la Magna, però, con tutto il rispetto, Presidente. Alle 8:30, alle 8:30, ho che capito, deve. Ma tutte le volte cascasse il mondo alle 8:30 a tavola, però per carità, va benissimo. Lorenzo, provincia di Varese. No, vuol dire, può accadere qualunque cosa, ma lui comunque alle 8:30 al massimo abbassa i fornelli. Cioè, comunque, per carità. Lorenzo, dica. Ho sentito poca goduria sul tema Ingroia, che è stata spedita da Aosta, e ha avuto anche il coraggio di lamentarsi. Si è lamentato, perché dopo che si è messo nelle liste in tutta Italia, tranne Aosta, poi si lamenta perché lo manda Aosta. È fantastica questa cosa, dicendo pure che è una cosa punitiva, ma punitiva di che? Cioè, è la punizione che si è cercata. Ma sì, ma poi punitiva chi è che voleva punirlo? Cioè, il CSM, c'è il complotto dei magistrati sporchi nei confronti dell'unico magistrato punito, non si capisce, francamente non si capisce. Però questo vittimismo veramente triste proprio, cioè, potesse preso pure gli schiaffi così alle elezioni, ma per favore, ma devono ringraziare che li fanno fare i magistrati, che abbiamo delle leggi simili, che uno va si candida con i fascicoli contro il levatore politico Berlusconi nel suo ufficio e si candida contro. Vabbè, secondo lei non deve nemmeno tornare a fare il magistrato, capito? Abbiamo la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24, ancora grandi sorprese qui, restate attaccati alla Zanzara, perché tra poco Cicciolina, neocandidata a Roma e chissà dove. La Zanzara. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito. Ha preso più schizzi lei che il quadro di Picasso. Io ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al casello di Genova. Duro. Vabbè, ognuno ascolta la Zanzara e prende quello che vuole, cioè. Duro. Questo potremmo definire una sorta di overture rispetto a quello che sentiremo tra poco, no? È l'overture. Duro. Patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui. Allora, innanzitutto, ma io mi chiedo una cosa, dimmi. Chi ascolta il signor Barisoni, ad esempio, no? Sì, io gli voglio un bene dell'anima, ma non si sognerebbe mai neanche di chiamare al centralino per dire io ascolto Barisoni e gli economisti perché mi viene duro? Mai, mai! Duro. Perché da noi chiamano questi? Perché? Perché? Perché? Comunque abbiamo lanciato la moda per l'estate, caro Parenzo, l'urinoterapia, cioè i ghiaccioli al piscio. Antonio da Messina, buonasera, 800 24 00 24. Tra poco Cicciolina, qui alla Zanzara, torna alla grande in politica, si candida, candidata dai liberali. I liberali, amico mio! I liberali, divento pazzo, non riesco nemmeno a dirlo! Amico mio, i liberali, il vecchio partito liberale. Candida, bisognerebbe chiamare Altissimo, quello di bravo. Malagodi. Sì, bravo, sì, quello di Malagodi, di Altissimo, il vecchio Partito Liberale, quello che resta, il Partito Liberale. Chiamiamo il nostro amico Altissimo, no? Il nostro amico Renato Altissimo, che penso che sta appena sente questa notizia, oppure no, non è detto. Antonio da Messina, buonasera. Sì, buonasera, grande Cicciolina, una volta assessino. Fra poco. Allora, per quanto riguarda il piscio, siamo dallo stretto di Messina, in questo e momento che succede vedendo... lì, scusi? Il bellissimo stretto, compare Penzo, compare Cruciano, buonasera a voi. Allora, qui noi usiamo i nuotatori, i traversatori, tra cui dovremmo anche enumerare Grillo, e il piscio, l'urina, la utilizziamo per difenderci e proteggerci dal morso delle meduse. Dal morso delle meduse? Ma che vuol dire? Esattamente. ti seguo subito. Ma scusi un attimo, quando uno sta dentro, quando uno sta dentro il mare, l'urina scompare, cioè il piscio si mischia. No, io sono un attraversatore, ti spiego subito. Ah, lei è uno che attraversa lo stretto di Messina a nuoto come ha fatto Grillo? Sì, io l'ho fatto nel 98, ho assistito anche alla traversata di Grillo, ma non l'ho chiamato per Grillo. Comunque, no, ma lei è il numero uno però, scusi Antonio, lei ma l'ho fatto d'inverno anche? Sì, mi sono allenato d'inverno, sì. Si è allenato d'inverno, una cosa pazzesca, ma Parenzo dopo 5 metri penso che morirebbe, tu moriresti Parenzo, vero? Ma io manco nuoto, che mi frega, ma è roba da matti, io rimango sulla spiaggia a prendere il sole e a guardare... E tu non sai nuotare? A guardare le signorine che passano. Non sai nuotare? No, faccio uno stile. Cioè non sai nuotare tu? Cioè tu non hai la patente e non sai nuotare? Ho altre doti. Ma perché non ti ammazzi direttamente? Scusa. Cioè... Uso la ciambella. Tu sei un istigatore del suicidio. Uso la ciambella però. Ci sono anche delle mie foto che sono uscite. Ma una cosa, cosa imbarazzante. Una cosa... Uso la ciambella, non usi mai a metà della ciambella. È una cosa orrenda. Antonio, allora? Allora, Grillo intanto deve ringraziare un siciliano. Cioè? Se è arrivato dall'altro lato. Giovanni Arena, detto Caronte, il suo barcaiolo. Perché noi diciamo che è il barcaiolo che ti porta, cioè il nuotatore da solo non farebbe nulla. È stato bravissimo per aspettare il cambio delle correnti. Tu sai che nello stretto c'è tutto un giro di correnti che cambia ogni 6 ore, bisogna indovinare la rotta. Ecco, il barcaiolo è stato bravissimo. E poi lui aveva la muta e le pinnette. Per cui non è stato omologato perché il vero traversatore. Ah, vabbè, ma lui non voleva fare la traversata professionale sua. Certo, ma è un dato storico. Ma qual è questa storia della piscia e del coso? Scusi, Antonio. Ti spiego subito. Allora, quando la medusa di Urtica ti colpisce, quando esce fuori dall'acqua il bruciore è tantissimo. E noi da piccoli abbiamo questo. Si pisce di sopra. Ma dopo, prima o dopo? No, dopo, ovviamente dopo. Ah, come cura, anche qui come cura. Sì, no, questo è vero. Esatto, sì. Vabbè, ma ho capito. Ma questo è vero, perché l'urina contiene ammoniaca. Vabbè, ho capito, dai, su. Questo è vero. Questo è vero. No, guarda, ti sto dicendo una cosa. No, va bene, d'accordo. Stato in Sicilia, è una cosa che sanno i ragazzini. Cioè, io non lo so. Ci si piscia sopra. Ci si piscia sopra alla pizzicata della medusa. Esatto, ora ovviamente se ti colpisce sul piede tu ci pisci sopra con la tua stessa urina. Sì. Ma se ti becca sulla spalla o in un punto in cui tu non arrivi, devi usare uno spruzzino con l'urina per buttarla di sopra. Vabbè, Antonio, grazie. No, questo è vero. Grazie, prego. Grazie. Molto cattivo gusto. Eccoci qua, cara Ilona, come stai? Caro Giuseppe Cruciani, come stai? Non c'è male. Allora, ma che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. No, beh, adesso siamo, cerchiamo di essere... Zanzaro, ovviamente sto parlando. E appunto, no, sai, se tu dici, ti ho punzecchiato talmente bene che il giorno dopo il culetto tutto rosso, la gente potrebbe pensare male. Così potrebbe pensare. No, beh, tipo puntura dalla zanzara, ovviamente. Ma anche qui in senso metaforico. Ma com'era il pungiglione? Era piccolino o abbastanza grosso? È una grande pungiglione, è tornato piccolo. Come è tornato piccolo? Scusi, questa è una cosa pazzesca. Si faceva stalle. Vai. Allora, candidata con il Partito Liberale al Comune di Roma. Ma io non ho capito una cosa. Il sindaco, sì, no? Il Roma il 26-27 maggio. Vabbè, questo lo sappiamo. Con lo scrittore, blogger, giornalista Luca Bagatin e l'attivista politico Andrea Ladillo e Edoardo De Blasio. E chi insomma, è? Ah, sì, come no? Vabbè, ma... Palumbo, Stefano De Luca, insomma. Vabbè, quelli sono i liberali, ma non ho capito, signora Staller, lei non è... liberale, parlo del partito, il fantastico partito liberale che abbiamo delle cose, molte cose in comune. Moltissime cose in comune. Abbiamo fatto un sposalizio, tra virgolettate, delle nostre idee, perché le nostre idee si combaciano, si baciano e si combaciano. Che cos'è che avete in comune con i signori liberali, con lo storico Partito Liberale Italiano? Per esempio, sono molto libertini? Sono molto libertini, signori liberali? Secondo me sì. Per esempio i diritti civili, lotta alla corruzione. Questo è vero però, grazie a Staller. In favore dei diritti dei disabili, riconoscimento legale delle coppie di fatto, legalizzazione della prostituzione, anche della... legalizzazione delle droghe leggere tipo marijuana, hashish, perché devi sapere che... Lei vorrebbe trasformare Roma in una sorta di Sodoma e Sodoma e Gomorra. Sodoma è stupendo, Roma come Sodoma e Gomorra. I liberali hanno delle idee molto... questo. Ma lo so, ma io la penso come lei, signor Staller. Bisognerebbe avere Roma piena di case chiuse, piena di bordelli, piena ricolma di bordelli. Ma non legalizzate, al momento legalizzati, stesso che, legalizzati. Al momento stesso, come hanno fatto, insomma, non dico il nome perché la persona è già morta. Fumerie di oppio. Hanno trovato delle persone dall'estero, sì, delle ragazze, gli hanno dato 6 anni di carcere, prostituzione e associazione a delinquere, insomma. Ma no. Per il momento, guardi, io la Roma che sogno è questa, piena di bordelli legalizzati, piena. La Roma che sogno, ed è anche la Roma che sogna lei, diciamo la verità. Piena di bordelli legalizzati, droga legalizzata, una sorta di Roma città aperta, no? Pensi il Papa, pensi il Papa. Legalizzata, tranne che per, diciamo che va bene, sì, per tutti quelle persone che spacciano a chili di, che ne so, droghe che vengono dall'estero. Signora Staller, lei si è mai fatto una canna? Guarda, io qui si dice tutta la verità, giuro, eh? Ti giuro, e guarda che non mi cascano le palle, non gli possono cascare, perché non sono, io vengo da un paese dell'est, vengo mai dall'Ungheria. Mai fatta una cocaina? Cocaina? Non mi dispiace il vino rosso, però non esagero, se no mi cresce tutta la... Lei la conosce misura. L'urinoterapia? Com'è? La conosce l'urinoterapia? No. L'urinoterapia è, secondo alcuni... Quindi è normale la signora Staller. È una persona normale, infatti non la conosce. L'urinoterapia, diciamo, si dice che con il piscio, bevendo il proprio piscio, guarda, è una cosa seria, non è una cosa... Uno può guarire da un sacco di malattie, è una sorta di medicina naturale. Ma tu lo sai che, visto che a te ti è molto simpatico, sì, mi ricordo che una volta comunque... penso, sì, se non sbaglio, adesso non vorrei sbagliare, il radicale Marco Pannella l'abbia fatto. Sì, però l'ha fatto. Sì. Volevo darti un messaggio importante. Selvaggia ti manda tanti saluti, ha detto: ha fatto bene Pannella quello che ha fatto, per tuo attacca. Ma scusa, ma quando l'hai sentita la signora Lucarelli, tu? Anche la signora Lucarelli. Quando l'ha sentita la signora Lucarelli? Selvaggia, ho sentito una ventina di minuti fa. Ah, 20 minuti fa. E mi ha detto di salutarti, ha detto digli a Giuseppe, che dice anche lei si sarebbe messo insieme con Marco a fare. Adesso io non so cosa ha fatto Marco da voi. Cosa ha fatto Marco da voi? È un casino. Ha spaccato un po' lo studio. Ha spaccato. Ma ci vuoi parlare? Ma invitaci a noi del Partito Liberale. A proposito, votate Partito, sì, Liberale. Vabbè, ho capito, adesso non faccia. Cominciamo a raccogliere le firme. Ma non faccia lo spot. Tutta, no? Roma. Vabbè, d'accordo. Ragazzi, venite, ragazze. Ragazzi, Se dice così, cioè, a Staller ci sarà una marea di gente che verrà da lei, signora Staller. Signora Staller, non mica aspetta a casa, su, dai. No, per carità, no. Poi scusi, ma lei, slogan, signora Staller, lei con quanti uomini è stata in tutto nella sua vita? Questo non lo so. Ma come non lo sa? Perché per il mio lavoro che ho svolto in generale, all'epoca parlo del quando ero porno diva di un trentina, sì, di anni fa, sì, è ovvio che ho fatto sesso con svariati donne su questo uomini, non c'è dubbio, però insomma non l'ho mai contati. Ma in tutto sono mille possibili? No, saranno anche oltre 2000. Oltre 2000? Oltre 2000. Sì, ma potrebbe essere anche 3000, 4000, non lo so, non... Ma sicuramente più di 2000. Non l'ho mai contati. Senti, io non mi vergogno perché... Ma no, ma si figuri. Un lavoro. Ma certo. Senti, invece per tante persone, cioè tante persone che si nascondono, diciamo, dietro le pareti di casa, sì, invece vanno in giro a tutta forza a fare sesso a gogo. Lei dice? Dammi retta che è così, dammi retta. E va bene perché il sesso comunque fa bene, Dubbio. Bene alla pelle, fa bene al spirito. D'accordo che io comunque non sto facendo sesso perché sono un single. In che senso, scusi? Molto felice. Da quanto tempo è che non fa sesso lei, signora Staller? No, un po' di mesi. Un po' di mesi? No, ma io non ci posso credere a questa cosa. No, un po' di mesi. Ma come un po' di mesi, signora Staller? Ma se lei non fa sesso da un po' di mesi è tutto finito. Tutto finito. Però io posso dirti una cosa, faccio altre cose. Sì, ma da quanti mesi esattamente? Masturbazione. Masturbazione, va bene, uguale, ma va. Come con... Vabbè, però adesso del dettaglio, insomma. Il dettaglio non ci andiamo, magari ascoltano troppe. No, ma scusi un attimo, signora Staller, da quanti mesi? Io ho lo slogan per la sua campagna elettorale, però, signora Staller. Da quanti mesi non fa sesso, signora Staller? No, veramente, da diversi mesi. Ma però... quanti? Si può dire 5 mesi, 6 mesi? No, io penso che forse, vediamo, forse 2 anni. 2 anni? No, ma, no, ma, non è, ma veramente 2 anni? Un voto di castità, mi sa. 2 anni? È possibile. Cioè da 2 anni solo autoerotismo. Senti, l'autoerotismo ha il suo fascino. Ah no, su questo non c'è dubbio, guardi, su questo non c'è Basta dubbio. Basta che ti chiudi gli occhi e pensi delle cose di quello che ti piace e ti piacerebbe, sì, e t'assicuro che appagante. Ah, non c'è dubbio, guardi, me le do pienamente ragione. Traffico 800240024, torniamo con Ilona Staller, candidata per il mitico, meraviglioso, insuperabile, intramontabile, direi a questo punto, partito un attimino erotico, Partito Liberale Italiano al Comune di Roma. Noi siamo grandi tifosi della Staller, vero Parenzo? Assolutamente sì. A tra poco. La Zanzara. Hai visto che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. Ciao Staller, mi ha rovinato questa cosa. Ma ha rovinato. Io parlavo di punzecchi. Ma lo so, ovviamente. Vabbè, ma hai visto mai? Scusi un attimo, signora Staller, ma. Ma vuole lo slogan gratis per la sua campagna elettorale? Lei deve fare un manifesto con lei, non dico nuda ma magari seminuda, oppure avvolta del simbolo del Partito Liberale, sì, oppure mettendo il simbolo del partito sui seni, no, tipo le ragazze, e poi lo slogan deve essere molto breve: con noi vengono tutti. Bello, bello. Non è male. Esattamente così. Non è male, non noi, è male. Il Partito Liberale, vabbè, che è un partito libertario, insomma, te l'ho detto prima, che per i diritti civili. Signora Staller, le posso chiedere una cosa? Qual è il politico? Vi sto parlando di una cosa seria. No, ma poi noi. Ma c'è tempo. Il 27 maggio sono le elezioni. Lo sa quante volte le inviteremo? Ma noi dobbiamo raccogliere le firme. Ma lo sa quante volte le inviteremo noi qua, da qui alle elezioni di Roma? Mica sarà direttamente da voi. Ma tutto faremo, facciamo porto un tuo amico che ti saluta tanto, ma ancora un'altra volta, del Partito Liberale, ancora oltre che Enzo Palumbo e che è il presidente Stefano De Luca, che aspetta ancora la tua telefonata. Vabbè, signor Stefano De Luca, vabbè. Signora Staller, qual è la cosa di cui lei si è pentita in assoluto nella sua vita da pornostar? C'è la cosa proprio di cui si pente che non lo farei male? Il pitone, cioè, che ne so, il pitone, il sesso con gli animali, il sesso no, io mi sono pentita di non di non aver ampliato un pochettino sul di alcune cose sulla sessualità, insomma. Cioè in che senso? Per esempio, a me mi manca, che le manca? Un cicciolino cinese. Un cicciolino cinese, cioè di farlo con un cinese, dice lei? Sì. Cioè, l'unica cosa di cui si pente è, no, mi sono fatto tutti, sto giocando, dai. Sono passati i tempi, guardate che io sono come un diamante, con mille sfaccettature, uno di questi era la pornografia, ma che ormai non ce n'è più, non lo faccio più il porno diva, e sarebbe anche assurdo di farlo, però insomma comunque l'erotismo in tutte le età, ovviamente, il autoerotismo, l'erotismo comunque di sognare, di fare delle cose con la persona giusta, quello non manca mai. Senta, insomma, nella politica di oggi, nella politica di oggi, signora Staller, qual è un politico con cui proprio lei farebbe un, non dico un film, ma sì, ma diciamolo pure, un bel film? Renzi, per esempio. Renzi lo farebbe? Ma sai, i politici di oggi, insomma, lascia stare che ci siamo messi nella merda, come vabbè, d'accordo, dire. Ma con Renzi non abbiamo nemmeno il governo, ragazzi, ma meglio, come meglio così, meglio ci così facciamo ridere tutto il mondo, siamo al 45 non so di quanti di giorni al Quirinale, chi metterebbe lei al Quirinale, al Quirinale? Io metterei una donna, La Bonino magari. No, potrebbe, vabbè, io ho detto Bonino, ma potrebbe anche essere una donna che non è stato mai al Parlamento, non è mai fatto politica, per una donna che ha un senso verso la gente, di dare tanto, insomma, come posso dirti, una donna che non ha mai fatto politica, vabbè, che possa però dare tanto alla gente. Ma lei non ci andrebbe a fare una visitina al Quirinale, così, una visitina? Ma che va a fare? Faccio una visitina, dai. Vabbè, comunque. Salto, poi torno. Signora Staller, mi dica un politico italiano con cui farebbe un film porno. L'ho detto chiaramente, un politico italiano di oggi. No, nessuno. Uno. Renzi, mi sembra quello più. No. Ma lo farebbe un salutino? Non vorrei. Chi è il politico che la affascina di più? Ma a voi quale politico come a me uomini? Renzi, a me Renzi quale mi politico piace. Vi piace? Io so che a voi, a te specialmente, lo so che ti piace Fornero, hai? No, Fornero. Dai. No, vedrei con Fornero. Scusa, ma perché no? Lei non si è mai innamorata di una donna, signora Staller? No, perché non, che ne so, non Io sesso sì ho fatto all'epoca. Beh, quello è chiaro che lei l'ha fatto. Quando ero, diciamo, porno diva. Certo, quello però, non c'è dubbio. Però è sempre ha un fascino, insomma, non indifferente. Però non è che mi sono mai innamorata mai. Di una donna. Scusi un attimo, no. Vorrebbe dare un salutino al signor Pannella? Magari in futuro, chissà, non si sa mai. Non si sa mai, sai. Appunto, no, dopo 2 anni senza sesso. Scusi un attimo, Pannella, farebbe un saluto a Pannella? Io Pannella lo voglio tanto bene, perché Pannella comunque per me è un grande oratore, è un grande politico. Vabbè, facciamo non una cosa. Non è stato trattato, sì. Diciamo così, veramente, non è stato. Anzi, io dico una cosa, lo invito di entrare con noi al Partito Liberale. Benissimo, facciamo una cosa, ne parliamo Enzo domani. Enzo Palumbo, assolutamente. Vabbè, lasciamo perdere Enzo Palumbo che non lo conosce nessuno. Un invito. Scusi un attimo, signor Staller. De Luca, vieni Pannella, ti aspettiamo al nostro Partito Liberale. Benissimo, allora facciamo una cosa, risentiamoci domani per qualcosina, così sì, lanciamo. Un approfondimento. Vero? No. Sei incazzato? No, incazzato. No, ma io mai, ma si figuri, no, non mi sono incazzato, figurati Ilona, no, assolutamente. No, ma tu sei una persona molto carina, mi sa che insomma, tu dovresti fare politica, ma vieni con noi, tutto lo staff vostro, venite, firmate, venite, aiutateci, con, no? Con voi, se ci sei tu sì, vengo, se no no. Ciao, a domani, ciao, a domani. Saluti. 18:30, viva la Zanzara, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Duro. Radio 24. La passione si sente.